Focus Economia. Buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Una giornata che è stata dominata sui mercati almeno nel corso della mattina, poi le cose sono lievemente cambiate e ne parleremo più avanti. Dalla situazione dell'Irlanda, dalle preoccupazioni per l'Irlanda, sarebbe pronto un piano di salvataggio dell'Unione Europea e ci sono preoccupazioni anche per il Portogallo. E questo è il primo tema che approfondiremo oggi. Come sapete, lo abbiamo già toccato venerdì, occupandoci in particolare della situazione dei titoli di Stato. Vedremo di approfondire oggi, la vigilia tra l'altro del Consiglio europeo, che cosa succederà per l'ex tigre europea, se così si può chiamare, e per il Portogallo. C'è già qualcuno che parla di rischio di contagio, tra l'altro dall'interno della Banca Centrale Europea, segnatamente il governatore della Banca d'Austria. Parleremo di questo, parleremo, come già vi accennavamo nel giornale radio, dei conti sui danni in Veneto. Come sapete, nei giorni scorsi, la settimana scorsa, il governo ha varato un decreto per stanziare 300 milioni di euro quantomeno per l'emergenza immediata. Oggi ha fatto il punto il presidente del Veneto, Luca Zaia. Parleremo di finanziaria e in particolare del bonus del 55% per le ristrutturazioni edilizie. Come sapete, è stato al centro di una polemica perché la proroga non è stata reinserita in finanziaria di questo bonus e ci sono un po' di settori produttivi in allarme, a partire dal Federlegno, ma non solamente, perché sicuramente è un beneficio per l'attività economica. Insomma, il rischio che non ci sia, anche se il governo dice che verrà inserito nel decreto mille proroghe, il decreto di finanziaria anno, ma naturalmente bisogna vedere che cosa succederà al governo di qui a fine anno. Insomma, c'è qualche preoccupazione su questo fronte. E poi parleremo del Fondo Italiano di Investimento, un fondo di private equity costituito tra gli altri dal Ministero del Tesoro, dalla Confindustria, dall'ABI, da Unicredit, da Intesa San Paolo, per intervenire ad aiutare le aziende che in qualche modo si vogliono espandere, che si vogliono internazionalizzare. Un fondo che ha una dotazione da 1 miliardo 200 milioni di euro. Oggi è stata inaugurata la sede e vedremo un attimo di fare il punto su questo fondo. I mercati in questo momento sono positivi, e sono positivi in forza soprattutto dei dati che sono arrivati dagli Stati Uniti. Ve li riferiremo tra un attimo. Il FTSE MIB guadagna lo 0,63%, il FTSE All Share lo 0,6%, positivo anche il resto d'Europa, mentre in America il Dow Jones guadagna lo 0,34%, il Nasdaq è in lieve calo dello 0,13 e l'euro, che scende in questo momento sotto quota 1,36 contro dollaro, 1,35,96, con le banche complessivamente, proprio per la questione irlandese che sta giocando il suo ruolo. Ce ne sono alcune in positivo, alcune in negativo, comunque complessivamente deboli rispetto al resto del mercato. Le notizie in breve di questa giornata. Oh, naturalmente il numero per intervenire in diretta è il 349-238-6666 via SMS. Iniziamo dal petrolio, come sempre, aperto il rialzo a New York, un più 0,6%, 85,39 dollari al barile, mentre si registra un lieve calo per l'oro, che scende a 1364,40 dollari l'oncia, il calo dello 0,3%. I dati americani di cui si diceva, ce ne sono un paio non particolarmente positivi, che sono l'indice Empire Manufacturing, ossia l'indicatore che segnala l'andamento del settore industriale nello stato di New York, che si è attestato a meno 11,1 a fronte del 15,7 di ottobre, dato peggiore delle attese degli analisti. E poi ci sono le scorte aziendali americane in settembre, che sono aumentate dello 0,9%, oltre le attese degli analisti, che scommettevano su un più 0,8%. Ma Il dato positivo sono le vendite al dettaglio. Come sapete, l'economia americana si basa in massima parte proprio sui consumi. Ebbene, le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono salite dell'1,2% in ottobre, è l'aumento maggiore degli ultimi 7 mesi e il quarto consecutivo. Sono state spinte dalle sostenute vendite di auto. Un dato interessante è questo delle vendite di auto, che già avevamo visto nelle settimane scorse aver spinto le vendite al dettaglio in Francia. Nel frattempo c'è un attacco abbastanza duro che arriva al presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke. Un gruppo di repubblicani gli chiede di abbandonare il piano di acquisti di titoli per ulteriori 600 miliardi di dollari. Chiederlo appunto a un gruppo di repubblicani lanciando una campagna contro la decisione della banca centrale in una lettera aperta che sarà pubblicata nel corso della settimana su Wall Street Journal e sul New York Times. Dicono: non riteniamo che serva raggiungere l'obiettivo della Fed, ovvero promuovere l'occupazione. Per quanto riguarda l'Italia, ci sono le parole di oggi della presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Dice: non spetta Confindustria dire quello che deve fare la politica, ma ci vuole molta serietà e responsabilità. Il momento è difficile, il paese deve essere governato e ovviamente, aggiunge, siamo preoccupati della situazione. Per quanto riguarda più specificatamente la crisi, non quella di governo, ma quella economica, dice: non è finita, c'è ancora incertezza. All'inizio della crisi del 2009 io ricordo in una platea di imprenditori il modo più sicuro per ottenere applauso era parlare male delle banche. Devo dire, devo confessare che anch'io qualche volta l'ho fatto, ma in realtà a parte, come dire, un po' un primo momento quando le cose sono molto difficili, dopo quel primo momento abbiamo preso una strada completamente diversa, cioè la strada di lavorare insieme, di cercare di mettere a disposizione delle imprese una serie di strumenti concreti che potessero aiutare le imprese in un momento difficilissimo come quello che abbiamo vissuto e che in parte stiamo ancora vivendo. Lo facciamo ovviamente in un contesto molto difficile, un contesto, come dicevo prima, di uscita dalla peggior crisi dal dopoguerra ad oggi, crisi nata finanziaria, diventata crisi ovviamente anche economica e industriale. Lo facciamo in un momento in cui appunto la crisi ha avuto, forse abbiamo alle spalle, diciamo, gli aspetti peggiori di questa crisi, ma la crisi non è finita. Così Emma Marcegaglia sulla crisi economica. Per quanto riguarda invece quella di governo, ecco cosa ha detto poco fa al microfono di Andrea Fontana dell'agenzia di stampa Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Sicuramente è un momento molto difficile, non spetta a Confindustria dire che cosa la politica deve fare, a noi spetta dire che il paese è in un momento complesso, il peggio della crisi è alle spalle, ma siamo ancora in un momento di incertezza e di instabilità. I problemi dell'eurodebito con quello che sta succedendo in questo momento in Irlanda sono evidenti e quindi questo paese ha bisogno di essere governato, ci vuole grande attenzione ai problemi dell'economia e dell'occupazione, perché questi sono momenti difficili. Insomma, gli altri paesi vanno avanti, se noi rimaniamo in una situazione di stallo e non governati, questo rischia di avere un impatto molto negativo su imprese e soprattutto sull'occupazione. Non ci piaceranno e non siamo d'accordo su situazioni pasticciate dove il governo del paese non ci sia o ci sia magari un assemblamento di persone, di partiti che possa far ripartire la spesa pubblica e non governi il paese. Quindi quello che noi chiediamo, appunto, ripeto, non sta a noi dire cosa fare, ogni cittadino può pensarlo, ma come Confindustria noi chiediamo però che ci sia una situazione di governo che sia in grado veramente di governare. Non sono questi tempi in cui si può sopravvivere o vivacchiare. Di oggi poi ci sono i dati sull'export che sono stati diffusi dall'Istat. A settembre le esportazioni sono cresciute del 3% rispetto ad agosto e del 16,4% su base annua. Per quanto riguarda l'import è rimasto invariato su base mensile, mentre è cresciuto del 23,9% su base annua. E ancora, a settembre il disavanzo commerciale risulta pari a 3,2 miliardi di euro un valore più che triplo rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il deficit commerciale nei primi 9 mesi dell'anno è notevolmente più ampio, scrive l'Istat, quasi quintuplicato rispetto a quello dello stesso periodo del 2009. E però arrivano anche dati positivi, quelli per esempio del Made in Italy, della moda italiana, perché dopo la forte crisi dell'ultimo biennio, anche se sullo sfondo resta lo spettro delle ristrutturazioni, la moda appunto torna a crescere. Quanto emerge dall'appuntamento che viene dedicato al mondo del lusso organizzato da Panbianco Intesa San Paolo, quest'anno dal titolo Moda nulla più come prima. Quali sono le stime? Secondo le stime, nei primi 8 mesi del 2010 si è registrato un recupero del fatturato del cosiddetto Made in Italy del 7%. Sempre dall'Italia ci sono i dati piuttosto interessanti diffusi questa mattina da Unioncamere, dai quali si apprende che Milano è tra le città più convenienti per il costo dell'acqua. Una famiglia tipo di 3 persone spende annualmente meno di un terzo di quanto paghi un analogo nucleo familiare a Firenze, mentre per i rifiuti a Cagliari si spende 2,5 volte quanto si sborsa a Campobasso. Per quanto riguarda il Veneto, è un tema che approfondiremo dopo le 18. Intanto vi possiamo fornire qualche dato dal presidente del Veneto, Luca Zaia. Ha fatto sapere che tutte le famiglie e le imprese coinvolte nell'alluvione del 1° novembre riceveranno a giorni una guida per districarsi nel labirinto della burocrazia dei rimborsi sui danni. Lo ha annunciato appunto Zaia, che è in qualità di commissario per l'emergenza, che realizzerà il Vademecum sulle fondamenta dell'ordinanza firmata il 13 novembre. Il documento, oltre a conferire al governatore appunto l'incarico, conferma lo stanziamento di 300 milioni di euro. Sulle zone colpite dall'alluvione del 1° dicembre suona tra l'altro un moderato allarme pioggia. Il polo funzionale decentrato della protezione civile, come già vi ha raccontato il giornale radio, ha segnalato eventi sui 100-150 mm di precipitazioni possibili. Approfondiremo più tardi, sentiremo le parole di Luca Zaia, sentiremo anche qualche voce degli imprenditori colpiti da un'altra alluvione, quella nel Salernitano. Vi segnaliamo, poi lo approfondiremo nei mercati, quel che è emerso sul fronte Fiat. Secondo alcuni analisti, dopo un incontro avvenuto venerdì scorso con l'amministratore delegato del Lingotto Sergio Marchionne, si è appreso che Fiat potrebbe cedere una quota in Ferrari e vendere Magneti. Marelli, la Fiat esce con un no comment. Adesso il primo tema di questa giornata, ossia l'Europa alle prese con deficit, debito, insomma Irlanda e Portogallo. Allora, iniziamo dalle notizie di oggi. Da Bruxelles si è tornato a ribadire, lo ha fatto il portavoce del commissario europeo agli affari economici e monetari Olli Rehn, che l'Unione Europea è pronta ad intervenire per sostenere l'Irlanda come ogni altro paese della zona euro in difficoltà, se ciò dovesse rendersi necessario. Tra questi paesi in difficoltà pare naturalmente che ci sia anche il Portogallo. Io saluto Antonio Pollio Salimbeni, corrispondente dell'agenzia di stampa Radio Cori, Il Sole 24 Ore da Bruxelles. Buonasera Antonio. Buonasera a voi. Allora, la prima domanda è molto semplice e banale. Vogliamo capire un attimo che aria tira a Bruxelles, perché nel fine settimana le indiscrezioni si sono diffuse. Gli irlandesi fino alla settimana scorsa dicevano che non avrebbero assolutamente avuto bisogno di aiuto, che insomma che c'era qualche problema, ma alla fine se lo sarebbero risolti in casa. E invece nel fine settimana si è capito che le cose non sono esattamente così, no? No, esattamente. Per la verità gli irlandesi continuano a ribadire di non avere intenzione di chiedere di chiedere un intervento del Fondo Europeo Anticrisi, in effetti, e sono stati poi smentiti sia da Dublino sia da altri governi, sia dalla Commissione Europea che dalla UE, smentiti i contatti che vadano nel senso di un negoziato su un eventuale intervento. In realtà la vera notizia di oggi, ed è quasi paradossale perché poi sui mercati c'è un'evidente distensione dei tassi di interesse sui titoli decennali irlandesi, in ogni caso la notizia arriva un po' da Lisbona, dalla capitale portoghese, perché il ministro delle finanze Teixeira dos Santos ha indicato al Financial Times questo pomeriggio che in realtà c'è un rischio elevato anche per il Portogallo di dover ricorrere a un intervento eurozona. Sì. Non c'è un solo problema in un solo paese, c'è lo stesso problema articolato in forma diversa in diversi paesi. In diversi paesi dell'eurozona. Ecco, tu citavi i titoli di Stato irlandesi, parlavi di distensione, in effetti sono in calo anche i costi, quelli che possiamo definire i costi per assicurarsi contro un eventuale default dell'Irlanda. Insomma, i credit default swap sul debito sovrano irlandese sono scesi di 28 punti e mezzo a 518 punti base. Allora, Antonio, io voglio capire questo. Oggi il governatore della Banca Centrale d'Austria, a questo punto non sappiamo nemmeno quanto improvvidamente, insomma, perché forse parlare a mercati aperti in questi termini non è saggissimo, e naturalmente membro del board della Banca Centrale Europea, ha detto che il rischio contagio esiste. Quant'è percepito questo a livello di commissione a Bruxelles? Quant'è percepito questo rischio di contagio? Ma è percepito ed è sul tavolo, sarà sul tavolo nella riunione di domani pomeriggio a partire dalle 5 dei ministri dell'Eurozona, a cui partecipa la Commissione Europea, partecipa la Banca Centrale Europea, ed è sul tavolo, è il tema con la T maiuscola. Non è un caso che appunto il Portogallo, il ministro portoghese abbia detto quello che ha detto sul rischio contagio, che l'abbia detto anche il banchiere centrale austriaco, sono segnali che vanno tutti in una direzione, che questo poi si traduca domani mattina o domani sera o dopodomani mattina in una decisione del governo irlandese e semmai del governo portoghese di ricorrere all'aiuto del fondo anticrisi eurozona è un altro discorso. Certo che si sta un po' ripetendo lo scenario che abbiamo visto diversi mesi fa quando si trattava di intervenire per la Grecia, giorni e giorni e poi alla fine dopo un mese e mezzo la decisione. È anche vero che allora la decisione di intervento a favore della Grecia era trattenuta, era frenata, è stata ritardata dalla posizione tedesca che ha resistito fino all'ultimo. Si ha una vaga idea di cosa possano fare i tedeschi in questa occasione, perché insomma salvare una volta va bene, chissà se salvare la seconda. È vero anche che nella fattispecie la Merkel non ha elezioni all'orizzonte, quindi in qualche modo la situazione politica tedesca è forse un filino più tranquilla rispetto a quella che ha preceduto la crisi e poi il salvataggio della Grecia. Che idea c'è dalla Antonio? Beh, adesso naturalmente ogni intervento ha la sua storia, bisogna vedere se ci sarà, di quanto sarebbe, per che cosa sarebbe. È chiaro che il problema irlandese non è il rifinanziamento del debito sovrano, perché sono a posto e coperti fino a metà 2011, è un problema che riguarda le banche, le banche da ricapitalizzare. Il fondo potrebbe essere usato per questo, perché non si presta alle banche direttamente, si presta agli stati, ma è evidente che se un sistema bancario come quello irlandese sta per capitombolare, è evidente che i rischi sistemici per il sistema bancario di altri paesi, soprattutto per le banche anche tedesche, che hanno nella loro pancia fior di titoli pubblici irlandesi, diciamo, in nome della stabilità generale un intervento sarebbe probabilmente giustificato. Non ho idea, certo la Germania si trova in un momento, il governo tedesco si trova in un momento in cui vuole stringere molto le corde della supervisione, le corde del controllo. Questo vuol dire che se l'Irlanda dovesse chiedere questo intervento, se dovesse chiederlo anche il Portogallo. Insomma, ci sarebbero tre paesi, ma è uno scenario che per ora diciamo non abbiamo sul tavolo, tre paesi comunque in prospettiva che potrebbero trovarsi nella situazione di essere effettivamente commissariati come è stata commissariata la Grecia dagli altri ministri dell'Eurozona. Un precedente politico interessante da valutare successivamente. Sì, questo assolutamente. Mi sembra di capire, Antonio, da quel che ci hai detto, che hai l'impressione che non è detto che domani si scoprano le carte. No, non è detto. Sicuramente i ministri finanziari dell'Eurozona discuteranno la questione. Non possono discutere, dovranno fare il punto della situazione. E qui funziona così, che poi a un certo punto l'Irlanda deve decidere se chiedere l'intervento o meno. Non è che sta solo all'Irlanda, non è che c'è solo da difendere diciamo, il principio del ce la faremo comunque da soli perché siamo irlandesi. Detto questo, veramente è tutto molto segreto, sono contatti, negoziati che si stanno maturando molto molto segretamente, come è anche ovvio che accada, ma non è detto che domani ci sia una decisione. Non è detto che ci sia una decisione domani. E quindi non è detto. Parte, il fatto che i mercati stiano andando come stanno andando, gioca qualche margine, probabilmente c'è. D'altra parte, però, non si capisce come mai questa accelerazione portoghese, questa è sul effetto contagio, questa dichiarazione del banchiere centrale austriaco. Insomma, sono segnali solo apparentemente discordanti. Ci dicono, tutto sommato, che nel pentolone qualcosa c'è di serio, ecco. Ultima domanda che ti faccio, Antonio, per quanto riguarda l'Irlanda, si parla, le indiscrezioni hanno parlato in queste ore di un piano di salvataggio che è calcolato tra i 60 e gli 80 miliardi di euro, mi sembra di capire più sulla seconda cifra che sulla prima, e probabilmente la richiesta all'Irlanda, e su questo forse si giocherà tutto dal punto di vista politico, di rialzare quella famosa tassa sulle imprese che le ha consentito di essere nei fatti la tigre d'Europa, mi pare un'aliquota del 12,5% per chi viene ad investire da fuori, no? Esattamente, certo, quella è una di quelle cose che saltano proprio, diciamo così, a ridere, cioè non c'è dubbio, anche perché non è un problema, diciamo, ideologico, quando anche qualcuno le avesse, in qualche ideologico, diciamo, di tipo di politica fiscale, dal punto di vista complessivo, non possono fare a meno di cancellarla, perché non, dove trovano i soldi? Questo è il punto, per poter poi ripagare i debiti, questo è il punto vero. Benissimo, grazie. Naturalmente questo avrebbe un effetto ciclico, un effetto economico brutto perché i dubbi degli irlandesi sono proprio là, insomma, dice certo. Insomma, voi se ci fate alzare questa tassa ci togliete crescita. Sì, non c'è dubbio, questo naturalmente questo è molti paesi, chi più chi meno, quasi tutti sono su questa lama di coltello. Per alcuni si stanno già ferendo seriamente. Perché il problema greco di fondo, il problema portoghese di fondo, il problema irlandese di fondo non è soltanto vuoi le banche, vuoi il rifinanziamento del debito sovrano, è che senza crescita non si trovano i soldi per pagare i debiti. E sì. Quindi e qui c'è il grande buco nero di questa stagione economica. E il rischio del circolo vizioso. Grazie dunque ad Antonio Pollio Salimbeni, corrispondente a Bruxelles per Radio Corriere del Sole 24 Ore. Buonasera, Antonio. Grazie a voi, arrivederci. Per quanto riguarda il cosiddetto rischio contagio, c'è qualche cifra che sull'Irlanda può essere interessante. Per darvi un'idea, l'esposizione dei sistemi bancari, le banche belghe hanno in portafoglio titoli irlandesi per un ammontare pari all'11,5% del prodotto interno lordo belga, le inglesi pari al 9,6% del prodotto interno lordo britannico. Per quanto riguarda l'esposizione sul debito irlandese, ammonta a 184 miliardi in Germania, 188 in Gran Bretagna. In Italia ci salviamo, insomma, 18 miliardi. Questo è il quadro, vedremo dunque che cosa succederà domani col Consiglio europeo. Vi ricordo il numero 349-238-6666 per i vostri sms. Ci ritroviamo tra un attimo, parleremo di mercati in una giornata che tutto sommato, come già ci diceva Antonio Pollio Selimbene, è stata una giornata di distensione, lo è stata anche sulle borse. Il FTSE MIB con un più 0,76%, il FTSE All Share con un più 0,75%, quindi tutto bene, e l'euro che, come si diceva, è tornato per la prima volta da fine settembre sotto quota 1,36, ma insomma è appena risalito sopra. A tra poco con i mercati. Le 17:37 minuti e 15 secondi è il momento della borsa. Eleonora Micheli, Radio Cuore, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, la giornata era partita maluccio sulla scorta dell'Irlanda, poi le borse si sono riconfortate, in particolare quella italiana, grazie in generale ai dati americani che abbiamo già citato e in Italia anche ad un effetto Fiat che oggettivamente c'è stato, no? Sì, poi sono migliorate anche tutte le banche. Ovviamente questa mattina, come hai detto tu in prima battuta, il timore per la delicata situazione finanziaria dell'Irlanda affossava un po' tutte le borse europee, che erano trascinate in basso soprattutto dai titoli bancari. Sul finale invece proprio sono state proprio le banche nel pomeriggio a rialzare la testa e quindi a far girare tutte le borse, Piazza Affari in primis, visto che le banche a Piazza Affari hanno un peso determinante. A parte il Banco Popolare, molte hanno girato al rialzo, così che MPS ha chiuso più 0,16% e ancora Intesa San Paolo più 1,28%, UBI più 0,28%, Unicredit più 0,52%. Allora, Eleonora, iniziamo proprio dal Banco Popolare. Il calo è del 3,48%, è il titolo peggiore del FTSE MIB, come mai? Sì, il Banco Popolare venerdì scorso ha dato i conti dei primi 9 mesi, che in verità si sono chiusi con un utile in crescita del 47%, oltre 467 milioni. Non sono stati tuttavia tanto i conti dei primi 9 mesi a preoccupare, ma a deludere sono state le indicazioni sulla strategia futura, una strategia un po' confusa. Di certo c'è solo l'aumento di capitale che verrà fatto a inizio 2011, aumento di capitale, ricordiamo, da ben 2 miliardi di euro, quasi poco meno della capitalizzazione di borsa del Banco Popolare. Inoltre invece c'è stata un po' di incertezza sulle indicazioni fornite circa le dismissioni che vuole compiere il Banco Popolare, insomma un po' la strategia futura, quindi questo non è andato a genio agli analisti. Tra i titoli che sono scesi, Leonora, c'è anche la Popolare di Milano dell'1,47%, c'è un motivo particolare, dico, tra i bancari naturalmente? No, anche in questo caso c'è un po', gli analisti puntano l'indice un po' sulla strategia futura della banca, però anche in questo caso nessuna novità del giorno. È comunque l'unico titolo insieme al Banco Popolare che è andato in controtendenza. Allora, i conti del trimestre e le indicazioni non particolarmente brillanti pesano anche sull'andamento di Geox, un meno 3%, piuttosto pesante. Sì, meno 3, che si va ad aggiungere al meno 8 di venerdì scorso. Venerdì scorso la società che produce scarpe ha diffuso appunto i conti di bilancio dei primi 9 mesi, che sono stati giudicati assolutamente deludenti dal mercato, che ha fatto subito precipitare le azioni. Oggi ancora le vendite non si sono placate, soprattutto ciò che fa paura ovviamente al mercato sono anche le indicazioni fornite per i mesi a venire. Del resto è stato detto che i margini continueranno a soffrire per tutto il primo semestre 2011. Questo per quanto riguarda Geox. Ti porterei dall'altra parte del listino, inizierei da Bulgari, un più 4,5% circa, un più 4,58% circa. Vi abbiamo fornito prima i dati per quanto riguarda il settore del lusso, delle previsioni per le quali si parla di una crescita del 7% nell'anno. È bastato questo a spingere così al rialzo il titolo, Eleonora? Sì, c'è un po' d'attenzione ovviamente nell'ultimo periodo sul settore settore del lusso, nel senso che i titoli, cioè le azioni del lusso sono quelle che hanno corso di più anche sulla scorta del fatto che c'è un po' di riassetto nel comparto, poi hanno registrato diciamo tasse di crescita ben maggiori rispetto ad altri comparti. Oggi poi a Milano c'è stato un convegno proprio sul comparto del lusso, sembra erano presenti imprenditori molto importanti e sembra un po' che il peggio sia ormai alle spalle. Addirittura Nors, l'amministratore delegato di Ferragamo, ha detto che Ferragamo tornerà a numeri ben superiori a quelli del 2007-2008, ovvero agli anni pre-crisi. Quindi c'era molto ottimismo, evidentemente società del lusso come Bulgari ne hanno beneficiato. Allora, rimbalza Ansaldo, un guadagno del 3,5%, mentre oggi c'è sicuramente, come già si accennava, parecchio da dire su Fiat. Il guadagno è del 3%, Exor guadagna il 2,27%. Ci sono novità su possibili cessioni? Esatto, facendo una battuta su Ansaldo, giusto perché l'hai menzionata, in questo caso almeno a detta dei trader si tratta di un rimbalzo tecnico. Dal 2 novembre, giorno in cui la società ha diffuso i dati, i titoli hanno inanellato un ribasso dietro l'altro, oggi il rimbalzo. Per quanto riguarda Fiat invece, venerdì scorso si è tenuta una conferenza, un incontro tra la società e gli analisti e sono state fornite delle indicazioni molto positive sugli anni a venire che evidentemente sono state recepite bene dal mercato, ma soprattutto è nata un po' di speculazione visto che Sergio Marchione, l'amministratore delegato, ha parlato di possibile cessione di Magneti Marelli e poi ha di nuovo ipotizzato la quotazione della Ferrari. E evidentemente naturalmente questo è piaciuto al mercato, si diceva il guadagno è stato del 3%, hai qualche segnalazione ulteriore magari sui titoli minori, Eleonora? Allora, cioè, sempre tra quelli a maggiore capitalizzazione, il più 3% di Fiat ha trascinato all'insù Exor più 2,27%, tra i titoli minori invece vale la pena ricordare che è lunedì e quindi il calcio si fa ancora sentire a Piazza Affari, le azioni della Lazio hanno guadagnato sul finale oltre il 5%, più 5,18%, visto che la Lazio ieri ha vinto, non ha riconquistato la prima posizione in classifica, ma insomma è solo a un punto di distanza dal Milan. Grazie dunque ad Eleonora Micheli di Radio Cor Il Sole 24 Ore per averci guidato anche oggi nella giornata di borsa. Buonasera. Buona serata. Quadro finale di giornata, oltre ai già detti c'è Pirelli che ha guadagnato l'1,7%, così come Fondiaria SAI, l'1,6 circa, Finmeccanica, Terna e Saipem, l'1,4 Autogrill, d'Intesa San Paolo si è detto un più 1,28%, Benecir più 1,25, Deni più 1,24, un punto percentuale di guadagno circa per Prismian, Telecom Italia e Azimut, Bene Mediobanca con un più 0,6, Snam Rete Gas altrettanto, mezzo punto percentuale di guadagno per Unicredit ed Enel, Campari più 0,44% e Tenaris più 0,43%, più 0,28% Ubibanca e Lottomatica più 0,26%, così come Generali. ST Microtronics più 0,23%, Monte dei Paschi più 0,16%, Italcementi più 0,09%. Titoli negativo in gran parte l'abbiamo già detti, aggiungiamo Parmalat in calo dell'1,27%, Impregilo dell'1,04%, Buzzi dello 0,64%, Mediaset di mezzo punto percentuale, Unipol dello 0,4%, Luxottica dello 0,29%, Atlantia dello 0,19%, A2A dello 0,09%, Mediolanum dello 0,07%. Euro che quota 1,36,18 contro dollaro. Adesso la linea va alla viabilità. Ci ritroviamo subito dopo e cercheremo di fare il punto sul famoso ecobonus, ossia la proroga del bonus del 55% per le ristrutturazioni edilizie ecocompatibili. Proroga del bonus che viene richiesta a gran voce non solo dai consumatori ma anche dal mondo produttivo, eppure su questo fronte qualche incertezza c'è, perché si è detto che forse sarebbe andato nel decreto mille proroghe, poi è rispuntata l'ipotesi che possa entrare in finanziaria, non c'è chiarezza e in particolare il mondo produttivo nella fattispecie ha qualcosa da dire in merito. A tra poco. Pubblicità. Per tutti quelli che lavorano, per tutti quelli che hanno la partita IVA, Qualche banca ha creato Conto Deposito Business. Oh yeah! Il 2,25% sulle somme depositate per un anno e interessi in anticipo. Condizioni valide fino al 31 dicembre 2010. Fogli informativi su chebanca.it. Che banca! La banca per tutti del gruppo Mediobanca. Oh yeah! Strade in diretta. Andiamo subito sulla 32 Torino-Bardonecchia perché l'autostrada è stata chiusa a causa di un incidente con mezzi pesanti coinvolti tra Bardonecchia e Savulza sulla carreggiata verso Torino. Sono in corso deviazioni lungo la statale 35. Sulla tangenziale di Bologna ci sono code per un incidente tra lo svincolo di Borgo Panigale e lo svincolo Nuova Bazzanese in direzione Autosole. Lungo la 4 Milano-Brescia code per materiali dispersi sulla carreggiata verso Brescia tra Dalmine e Seriate. E la pioggia complica gli spostamenti al nord-ovest. Prudenza, diversi tratti allagati sono segnalati sulla diramazione Gallarate-Gattico. Code per lavori lungo la 14 Adriatica tra Grottamare e Pedaso in direzione Ancona. Il traffico è rallentato sempre per lavori anche sulla 3 Salerno-Reggio Calabria in direzione nord all'altezza dell'allacciamento con raccordo Salerno-Avellino. Circolazione sostenuta con code e rallentamenti in uscita dalle principali città. È tutto, il prossimo aggiornamento è tra circa mezz'ora. Promo 24. Essere precursori non significa solo anticipare il futuro, ma anche determinarlo, anche quando si tratta di scegliere un'auto. La nuova Audi A7 Sportback è la massima espressione dell'avanguardia tecnologica e di design. Il prestigio di una berlina, la sportività di una coupé, la funzionalità di una Avant si riuniscono in un concept che non ha precedenti. Le linee fluide del profilo, i gruppi ottici a LED e il frontale deciso sono il risultato di una visione di qualcosa di completamente nuovo. Tre motorizzazioni, tutte con trazione integrale 4 e cambio automatico S-Tronic. 2008 FS TFSI da 204 cavalli, 3000 TFSI da 300 cavalli, 3000 TDI da 245 cavalli. Lasciatevi ispirare dalla nuova Audi A7 Sportback presso gli showroom Audi. Focus Economia. Le 17:48 minuti e 18 secondi, parliamo dunque di finanziaria che sarà in aula da domani con quel nodo che si diceva che è ancora da sciogliere, ossia la proroga del bonus del 55% per le ristrutturazioni edilizie cosiddette ecocompatibili. All'interno di questo bonus, come sapete, come sanno anche coloro che vi hanno avuto accesso, rientrano una serie di cose, tra cui per esempio il rifacimento degli infissi che poi permette di risparmiare sul riscaldamento o sull'aria condizionata, ed è per questo che è ecocompatibile. Qual è il punto? Il punto è che la proroga di questo ecobonus nella finanziaria non è entrata al momento. Si è detto, è stato detto da parte del governo, da parte del relatore alla manovra, che probabilmente sarebbe entrato nel decreto mille proroghe, questa sorta di decreto omnibus di fine anno che poi raccoglie appunto una serie di proroghe, non a caso si chiama mille proroghe, Poi sabato il viceministro Vegas aveva detto proveremo ad inserirlo in finanziaria, ma sarà molto difficile. Sentiamo dunque che cosa ci ha detto. Ci riserviamo di valutare la questione perché ha delle implicazioni che riguardano sia l'onere diretto sia gli effetti indiretti e che vediamo se è possibile portare qualche ragionamento in aula direttamente. Non sarà facile però, detto questo, quindi è ovvio che diciamo, come tempistica è più ragionevole quella già annunciata relativa al decreto di fine anno. Cerchiamo di lavorarci, però non è facilissimo, anche perché ovviamente noi in questi emendamenti che abbiamo fatto in commissione abbiamo cercato di utilizzare tutte le risorse disponibili, quindi per trovarne delle altre occorre fare, come dire, una valutazione ulteriore. Così dunque sabato il viceministro all'economia Giuseppe Vegas. Io saluto Rosario Messina, presidente di Federlegno Arredo. Buonasera presidente. Buonasera a lei. Che naturalmente è una, come dire, delle realtà produttive, se così possiamo dire, che rappresenta una parte delle realtà produttive interessate alla questione. Da parte vostra c'è un certo allarme su questo fronte, immagino, perché se è vero, come ha detto Vegas, insomma, che probabilmente non sono riusciti ad inserirlo in finanziaria e forse andrà nel mille proroghe, bisogna vedere poi se il governo regge, insomma, se al mille proroghe ci si arriva. Ma guardi, io spero che il governo regga e che ci sia mille una proroga, perché se il 55 non dovesse rientrare né nella finanziaria né nel mille proroghe, alla situazione drammatica dal punto di vista produttivo che stiamo vivendo in Italia, se si aggiunge questa, onestamente non è che sia un po' oscuro il futuro, è nero cupo, anche perché effettivamente dal 2007 questa opportunità delle 55 ha portato a un investimento in acquisti di materiale pari a 11 miliardi di euro, perché ci sono stati 600.000 interventi. Questo significa che non è che penalizzi soltanto le persone che lavorano nell'impiantistica e nell'edilizia, ci sono sinergicamente settori industriali che vengono penalizzati in un modo drammatico. A questo si aggiunge la crisi paurosa nel mondo dell'edilizia e devo dire il grande penalizzazione che possiamo avere non solo dal punto di vista del risparmio energetico, ma c'è anche da non dimenticare che la limitazione nella ristrutturazione delle case delle emissioni di CO2 a noi ci evita le multe che stiamo prendendo perché non riusciamo a rispettare i parametri di Kyoto, per cui è stato un intervento eccezionale perché ha interessato a 360 gradi risparmi energetici, rispetti di parametri e occupazione. Non dimentichiamo che stiamo avendo una situazione particolarmente negativa ormai da 2 anni, l'unica cosa che è aumentata è quel miliardo di ore di cassa integrazione, il che significa che siamo messi veramente male. Voi avete calcolato, tra l'altro, Presidente, una messa a rischio di circa 8.000 posti di lavoro solo nel comparto dei serramenti, no? Se non sbaglio. No, è preciso, è calcolato, ma solo i serramenti. Lei prova a immaginare poi quanto altri settori sono interessati nell'ambito della ristrutturazione. Certo, no? A partire dall'edilizia. Ecco, Presidente, c'è una questione di cui tener conto e che in realtà accennava già il viceministro Vegas. Gli incentivi sono per lo Stato generalmente un'arma positivamente a doppio taglio, perché se da una parte si danno soldi, no? Si incentiva un determinato tipo di intervento, dall'altra parte ci si guadagna in termini di occupazione, quindi entrano tasse da nuovi dipendenti, eccetera, eccetera, no? Ma è questo il conteggio che noi abbiamo fatto, perché guardi, se stiamo fermi lo Stato perde su tutti i fronti, perde sull'IVA, perde sui contributi previdenziali, le dirò, aumenta evidentemente il costo della cassa integrazione, le famiglie sono talmente stravolte che aumentano automaticamente il costo dei medicinali, perché gente che va talmente in depressione che si deve anche curare. Poi abbiamo un problema estremamente drammatico, qui noi siamo in una situazione da terza guerra mondiale, per fortuna senza bombe, ma il problema è che siamo in competizione col mondo. Allora in Europa noi non possiamo essere l'unico paese che, lo so purtroppo, ne abbiamo parlato più volte con il ministro Tremonti del debito pubblico, ma la Germania, che 4 anni fa era andata a zero proprio come debito, ora è indebitata più di noi, perché si sono resi conto che bisogna creare un piano Marshall, emettendo qualsiasi titoli europei, titoli regionali, di qualunque tipo di titolo, che dia la possibilità di rilanciare l'economia, perché se no noi perdiamo posizioni nel mondo che non riusciremo a recuperare più. Noi siamo un paese che vive sulle industrie, un paese manifatturiero, noi non abbiamo petrolio, non abbiamo giacimenti. Se si penalizza su questo, noi scompariamo dal sistema produttivo internazionale. È chiarissimo. Io la ringrazio Rosario Messina, presidente di Federlegno Arredo, per essere stato con noi e buonasera. Grazie a lei, buonasera. Prima di chiudere una risposta, ci dite se non si vuole tagliare gli sperperi il 55% non si avrà, ci dice Marco. Non ci sembra uno sperpero, francamente. Consideri che nel 2009, dati di oggi di Eurostat, la spesa pubblica si è attestata al 51,9% contro il 48,8% del 2008. Ci sembra che gli sperperi siano altri. Ci risentiamo dopo il giornale radio. Le 17:08, poco fa ha parlato il ministro dell'economia Giulio Tremonti, l'agenzia viene battuta adesso dall'agenzia di stampa Radio Cori Il Sole 24 Ore, dice domani a Bruxelles ci sarà una discussione molto impegnativa sull'euro e quindi sull'Italia, e torna ad intervenire anche il governatore della Banca Centrale Austriaca, dice nessun rischio di default per uno stato dell'eurozona, quindi un messaggio tutto sommato abbastanza tranquillizzante in una giornata di mercato complessivamente positiva, dove il FTSE MIB ha guadagnato lo 0,78% e altrettanto ha fatto il FTSE All Share, e l'America guadagna lo 0,63% sul Dow Jones e lo 0,22% sul Nasdaq, ed euro che si riprende un pochino dai minimi di oggi, guadagna è a 1,36,18 contro dollaro. Questo un brevissimo quadro di giornata, naturalmente in attesa soprattutto per quanto riguarda l'Irlanda dell'evoluzione di quel che succederà domani. Adesso il primo argomento di questa seconda parte, come annunciato, i conti, qualche conto dell'alluvione in Veneto. Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, nella sua veste di commissario per l'emergenza, ha ufficializzato il bilancio della distruzione provocata dal maltempo in Veneto. È stata confermata la stima iniziale in 1 miliardo di euro, sono almeno 8.000 le aziende bloccate dal disastro e sono ancora incerte, proprio perché i tempi sono abbastanza stretti, considerate che l'alluvione è avvenuta un paio di settimane fa circa, sono ancora incerte le ricadute occupazionali. Il governo ha annunciato l'arrivo in tempi rapidi di 300 milioni di euro e la sospensione delle rate sui mutui di chi ha avuto la casa allagata o danneggiata. I fondi non sono presenti in finanziaria, perché questo tema era stato sollevato anche al Partito Democratico, per il semplice fatto che dovrebbero arrivare da un capitolo per le spese straordinarie del governo per le emergenze ambientali. Anche di un'altra alluvione ci occupiamo, quella nel Salernitano. Secondo le prime stime di Confagricoltura, l'area ha subito danni per 500 milioni di euro. 4.000 ettari sono stati sommersi e sono a rischio 20.000 posti di lavoro. Sulla stima dei danni sentiamo proprio il presidente del Veneto, Luca Zaia, al microfono di Silva Menetto. Beh, il miliardo di euro verosimilmente viene confermato da tre linee di investimento. La prima, che è quella dei danni agli alluvionati, quindi alle abitazioni e alle aziende. La seconda, che è quella del recupero delle infrastrutture danneggiate, quindi mi riferisco, che so, agli argini che se ne sono andati con l'alluvione. La terza è quella delle grandi opere che servono ai territori per non aver più le alluvioni. Questo è tranquillamente un miliardo. Il conto corrente diventerà riferimento del governo per gli stanziamenti attuali, che sono di 300 milioni di euro confermati con la firma di sabato, e anche di quelli futuri, ma anche di tutti quelli che doneranno, e che ringrazio tutti per quello che hanno fatto e vorranno fare. Noi abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, quindi ringrazio tutte le forme di solidarietà che sono state messe in piedi e che verranno messe in piedi ad aiuto degli alluvionati del Veneto. E poi la nostra Silvia Menetto ha intervistato anche il presidente del Veneto Zaia. In questa intervista precisa come la funzione di commissario sia svolta senza compenso, e ha espresso anche qualche timore sulle conseguenze per l'erogazione dei fondi da un'eventuale crisi di governo. Ascoltiamolo. Il sottoscritto, cioè il commissario nominato dal governo, lavora gratis ed è giusto sia così, quindi evitiamo di dire cretinate o fandonie, magari, che poi si diventano leggende metropolitane. Il sottoscritto non guadagna una lira, e lo faccio volentieri per i veneti, nel senso che non era un'attività obbligatoria, ma penso che i veneti abbiano bisogno di sentire la vicinanza del loro governatore. In ordinanza ci sono questi 300 milioni sicuri. Lei non teme che con la mancata tenuta casomai del governo ci possano essere almeno dei ritardi per i prossimi interventi? Beh, questo è un pericolo, nel senso che questo è un governo che ha consenso e è in grado di portare avanti le grandi sfide. Prova ne sia che 300 milioni di euro ce li abbiamo in ordinanza con una promessa dopo 8 giorni dall'alluvione, mai accaduto prima d'ora. Se il governo dovesse cedere a queste incursioni alle quali stiamo assistendo in queste ore, è ovvio che avremo necessità di trovarci altri interlocutori e rischierebbero anche magari di essere meno affidabili. Lei ha detto che comunque il presidente Napolitano farebbe da garante in qualche modo alle promesse. Beh, il presidente Napolitano è assolutamente affidabile, si è interessato per mio tramite dell'alluvione, l'ha seguita, la sta seguendo e non ho motivo di pensare che lui sarà veramente uno cioè il punto di riferimento comunque qualsiasi cosa accada per l'alluvionati del Veneto e per l'alluvione del Veneto. Fino a 30.000 euro basterà un'autocertificazione. Vogliamo spiegare alla gente come farà a sapere come farla questa autocertificazione? Arriverà un vademecum? Beh, arriverà un vademecum, ovvero la possibilità di capire con degli esempi molto semplici su come si presenteranno le domande per il tramite dei sindaci. Per cui direi in questo momento di dire a tutti i cittadini di stare a casa tranquilli, di non preoccuparsi, magari la solita preoccupazione, sto perdendo il tempo prezioso, magari arriverò per ultimo, sono già scaduti i termini. Non esistono tutte queste problematiche. Arriverà a casa o nei comuni nelle prossime giornate, io spero di riuscire a farlo entro fine settimana, il facsimile di come si compila la domanda. Da quel momento si inizia a raccogliere senza l'ansia di doversi trovare con i termini del tipo del pagamento delle tasse o altre robe del genere. Per la sospensione dei mutui, Presidente, lei da commissario si farà in qualche modo anche da garante nei confronti delle banche? Beh, assolutamente sì, a me sembra che ci sia già una disponibilità da parte degli istituti bancari della moratoria e penso che per gli alluvionati ci dovrà essere sicuramente un segnale. Sospendere il pagamento dei mutui, lo chiederò a tutti gli istituti di credito in modo tale che poi si possa riprendere a cose ferme e a bocce ferme. Tra l'altro la Protezione Civile ha segnalato eventi sui 100-150 mm di precipitazioni per i prossimi giorni, un moderato allarme pioggia in queste zone, mentre invece il maltempo, insomma ve lo diciamo visto che siamo in tema, si sta spostando al centro-sud. La Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteo. È proprio al centro-sud che ci sposteremo tra un attimo. Abbiamo mandato la nostra Raffaella Calandra nel Salernitano a sentire com'è la situazione. Come sapete c'è l'emergenza idrica, c'è stata l'alluvione, ci sono molti problemi soprattutto per l'agricoltura, la viabilità, e subito dopo sentiremo le voci che appunto Raffaella Calandra ha raccolto. Focus Economia. E veniamo alla situazione per quanto riguarda il Salernitano, sempre e naturalmente sul fronte economico. Allora, come si diceva, secondo le prime stime di Confagricoltura l'area ha subito danni per 500 milioni di euro e a rischio ci sono 20.000 posti di lavoro, perdite non solo per le infrastrutture rurali, le aziende zootecniche, ma anche per l'annegamento o la fuga di centinaia di capi di bestiame. Allarme soprattutto naturalmente in questa fase dai produttori caseari. Si sono registrati rallentamenti nella produzione di mozzarella e bufala per la morte di molte bufale, ma anche per la carenza di acqua potabile. Lo ricordiamo che insomma l'emergenza idrica è ancora viva e riguarda circa 500.000 di persone. Sentiamo su questo la voce di un piccolo produttore intervistato dalla nostra Raffaella Calandra. Questo è ancora il primo anno di attività. Noi abbiamo fatto un anno di attività a maggio. Un anno che è cominciato non proprio bene. No, malissimo. E quindi per noi è ancora più difficile perché magari altre aziende sono qua presenti sul territorio da più tempo. Noi abbiamo comunque spese di inizio e quindi mutui da affrontare, rate che si vanno ad accumulare, perché ci sarà da anticipare i soldi per mettere a posto tutta l'azienda, gli uffici, quasi allagato tutto, abbiamo cacciato tutto. Ci spiega che cos'è questo verso? Richiamo per il massaro che dovrebbe venire qui a prenderle e portarle alla mungitura. Quindi per questo il fatto di essere state due giorni nell'acqua senza essere state munte e poi in una condizione di sofferenza, quindi sì, nuotando sì, per non annegare sì. avrà portato dei danni. Sì, gravi effetti di stress sull'animale. L'alluvione ha avuto degli effetti diretti su di voi? Sì, l'alluvione ha avuto danni ingenti sia sul patrimonio dei mezzi agricoli, sia sui terreni, poiché erano terreni già coltivati, già seminati, è andato via il lavoro di mesi. Il raccolto ormai si può dire perso, come si possono dire perse le scorte che abbiamo là di mais. Un ascoltatore ci scrive al 349-238-6666 che ad ogni disastro a sentire Berlusconi si battono tutti i record di aiuti, ma da voi nessuno replica, ci accusa di dare tutto per assodato. Non è che diamo per assodato, semplicemente che sono stati promessi 300 milioni di euro. Insomma, quando questi 300 milioni di euro, se mai questi 300 milioni di euro non dovessero arrivare alla Regione Veneto, è una cosa che ovviamente denunceremo, come probabilmente farà lo stesso presidente della Regione Veneto Zaia. Insomma, non è che non replichiamo, insomma, quando ci saranno i fatti, quando ci saranno i soldi, se ci saranno ci si ragionerà sopra, se non ci saranno, insomma, partiranno le critiche. Sempre al microfono di Raffaella Calandra, la gente denuncia anni di incuria dei fiumi, e poi sul fronte economico spera in aiuti come è stato proprio per il Veneto. Sono passati 20 anni e nessuno ha messo mano al fiume. E noi con quello che abbiamo siamo contadini, quello po' che facciamo lo perdiamo e nessuno ci guarda in faccia. Stamattina è stata sul fiume, come l'ha trovato il fiume? In condizioni disperate. Adesso ci stiamo rivolgendo alla magistratura. Sarà il magistrato ad indagare quali siano le persone responsabili del fiume Sele e del Ciorlito. Nell'insieme poi abbiamo perso, vedete qua, cioè, ci sono 8 autotreni di paglia, pieno, insilati di mais, diciamo. So però che c'è un'azienda che ha perso 70 capi. Sei quella là che sta a Ponte Barizzo. Un'azienda che perde 70 capi vuol dire che è praticamente finita. Sì, sì, sì. Secondo voi c'è stato da parte del governo un'attenzione diversa rispetto tra l'alluvione in Veneto e questa nel Cilento? Sì, no, ci sono, sì, sì, sì. Sì, sicuramente sarà stata un'alluvione di entità maggiore. Ma pure qua abbiamo subito dei danni grossi. Beh, voi chiedete che la vostra alluvione, diciamo, abbia lo stesso trattamento che ha avuto il Veneto. Vogliamo che noi fossimo trattati nello stesso modo del Nord Italia, perché vedo che già ci sia una, diciamo, un'Italia divisa in due, Nord e Sud. Quindi una sorta di richiamo dalle popolazioni del Salernitano a trattare tutte le alluvioni nella stessa maniera. C'è da dire anche che noi ne abbiamo parlato a lungo anche in Focus Economia, perché oggettivamente la struttura produttiva di queste due zone d'Italia è completamente diversa. Del Veneto se ne parla, si diceva, perché insomma ci sono anche 8.000 aziende ferme ed è il cuore produttivo d'Italia, insomma quel manifatturiero del quale molto abbiamo parlato. Detto ciò, naturalmente il Salernitano non va scordato. Si parlava di manifatturiero, ebbene cambiamo proprio argomento e veniamo a parlare di industria italiana. Con il convegno organizzato da Confindustria su Lombarda sulla finanza a sostegno dello sviluppo delle imprese del paese, il ruolo del Fondo Italiano di Investimento. Che cos'è il Fondo Italiano di Investimento? È un fondo con una dote da 1,2 miliardi di euro, partecipato dal Tesoro, dalla Banca d'Italia, da Confindustria, da Intesa San Paolo, da Unicredit, di fatto è un fondo di private equity, ossia che investe nelle aziende per dare più capitalizzazione per aiutare ad affrontare i mercati internazionali. Saluto Andrea Fontana di Radio Corre il Sole 24 Ore. Buonasera Andrea. Buonasera Simone. Allora, come si sta muovendo questo fondo? Tu sei tra l'altro là al convegno, sta parlando in questi minuti il ministro dell'economia Giulio Tremonti, dice che il fondo salverà il lavoro, salverà posti di lavoro e aiuterà le imprese italiane. Insomma, come si sta muovendo in questa prima fase, Andrea? Beh, il fondo che è stato annunciato a marzo, tu ricordavi la dotazione 1,2 miliardi di euro, ha ottenuto nelle scorse settimane, nel mese di a fine di agosto, l'autorizzazione ad operare della Banca d'Italia e già negli ultimi giorni ha esaminato i primi investimenti, 5-6 investimenti, lo ha detto anche Lo hanno detto anche i vertici del fondo stesso, i primi 5-6 investimenti che saranno chiusi, saranno definiti e annunciati entro la fine dell'anno. È un fondo che investirà 600 milioni direttamente nel capitale delle aziende, rilevando delle quote di minoranza, quindi affiancandosi all'imprenditore nello sviluppo dell'azienda, scegliendo aziende che puntano a una crescita, a uno sviluppo in particolare all'estero. Gli altri 600 milioni invece andranno ad alimentare i fondi di private equity, quindi farà un'attività di fondo di fondi, quindi farà investimenti indiretti. E c'è anche un supporto, Andrea, per le imprese che vogliono unirsi, diciamo così, perché questo è un altro dei grandi temi? Certamente uno degli scopi del fondo non sarà quella di operare in una logica di private equity e quindi di acquisire semplicemente delle partecipazioni, ma cercherà di operare, lo hanno ribadito i vertici oggi, l'amministratore delegato Gabriele Cappellini in particolare, in un'ottica un po' diversa e quindi con un'attenzione particolare alle operazioni un po' di sistema, alle operazioni ad esempio di filiera, e quindi investire in aziende che operano nello stesso settore e metterle insieme per aumentare le dimensioni. Lo stesso ministro Tremonti ha detto che questo fondo farà crescere le dimensioni delle aziende italiane che spesso sono troppo piccole quando vanno all'estero. Ti chiedo di rimanere ancora un attimo in linea con noi, ci sentiamo una voce che tu hai raccolto, che è quella della presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, proprio sul fondo. Ascoltiamola. Siamo molto contenti, ci abbiamo creduto fin dall'inizio, l'abbiamo chiesto fin dall'inizio, è uno strumento che tutto sommato in un anno ha preso vita, abbiamo già 5-6 casi di aziende già, come dire, in qualche modo che sono state analizzate, il fondo è pronto a entrare nel capitale. Questo, come diciamo, è anche uno strumento un po' di politica industriale, di politica economica, nato per la crisi ma che rimarrà anche dopo la crisi. Il target di imprese sono circa 15.000 aziende, le aziende da 10 milioni di euro a 100 milioni di euro. Allora Andrea, mi sembra di capire che l'obiettivo finale, almeno con questa dotazione, una dotazione di 1.200 milioni di euro, sia di supportare più o meno 200 aziende, ho capito bene? Sì, esattamente. Il target che il fondo si è dato è di circa 180-200 investimenti nell'arco temporale di 5-7 anni, che è il tempo di vita in cui il fondo andrà ad operare, naturalmente in una logica di investimento, e che poi, come ogni fondo di private equity fa, sarà poi una logica di disinvestimento, quindi di uscita successiva nell'arco del tempo dal capitale delle aziende, perché a quel punto le aziende potranno ad esempio quotarsi in borsa o per esempio potranno aggregarsi con altre aziende. Benissimo, grazie ad Andrea Fontana di Radio Cori Il Sole 24 Ore. Buonasera Andrea. Buonasera Simone. Siamo quasi in chiusura di Focus Economia. Io saluto Giuseppe Cruciani per un'anticipazione della Zanzara. Giuseppe. Ciao Simone, allora parleremo naturalmente dell'evoluzione della crisi politica italiana con le dimissioni dei ministri Finiani, anzi del ministro Finiano, del viceministro e del sottosegretario, insomma la componente di Futuro e Libertà all'interno della compagine governativa. Avremo poi ospite il mitico predellino Giorgio Straguadagno, che è protagonista di un'altra polemica molto forte all'interno del Popolo della Libertà oggi. E di una memorabile intervista sul Corriere della Sera di oggi. È tutto per questa puntata di Focus Economia. Un grazie a Barbara Bianchi in redazione e a Mauro Del Corno. Grazie a Valeria Bernardi in regia. Ci risentiamo domani dopo il GR delle 17. Radio 24. La passione si sente.